Rinuncia al breve secolo. In giugno a Sarajevo, da Caporetto scappiamo. Per annegarne sangue Milano, da un lato le corti e dall'altro soldati defunti. Marzano verso solo mai sorti. Esce fumo da Auschwitz, odore di uomini morti, immolati come tori, dentro ad altari crematori. E quei cadaveri coprano la terra dei poveri, trattando i loro simili come Hitler con i loro padri. Vivemmo tra l'aquila e il martello, credendo di non esserci dentro. E chi era contro veniva fottuto dall'ennesimo re del mondo. Guerre, morti per soldi, fottuti accordi tra nemici e bastardi. Mani tese verso pazzi, tutti hanno fini doppi, legati a fini doppi, con interessi e massacri. Si gonfia il portafoglio e altre vite si spengono di un fungo d'uranio. Uomini per animali, per testar medicinali, e proletari a morire in corsie di ospedali statali, pregando ogni giorno, ogni momento, che il mio corpo non cada morto, neanche in questo c'è secondo. Chi crede in un mondo migliore, c'è chi crede che non vuole cambiare, e poi c'è chi guarda il telegiornale alla tele. Sono storie assurde ma vere, sono le storie di un secolo. C'è chi crede in un mondo migliore, c'è chi crede che non vuole cambiare, e poi c'è chi guarda il telegiornale alla tele. Sono storie assurde ma vere, sono le storie di un secolo. Viviamo nei sottofondi dei sobborghi di luoghi nascosti, nel ventre di terre perverse, governate da merde fumanti che si credono re dei due mondi. Altro delitto Matteotti, altri imperi fascisti malvisti da autopisti convinti. Mussolini come Silvio, i pixel di Mediaset alimentano i semi dell'odio. Discorsi da un podio per rendersi automi rinchiusi tra le bombe dei due cieli. Tempesta sulle braccia di destra e alla sinistra, e chi ha il potere in tasca, soldati rischiano la pelle, coi suicidi delle torri gemelle nel jet set del Fed. Tutti Superman a fianco di zio Sam. Com'è che il padano è diventato ministro dell'interno dell'anno? Disperati attraverso un oceano, c'è chi vuole affondarli e chi entrare in Parlamento fa danni. Un eletto impazzito, M16 spianato. Credi che abbia scherzato? Non viene ancora capito. Abbi rispetto per il sangue di chi è morto per questo. Attento che in piazza Loreto c'è posto. C'è chi crede in un mondo migliore, c'è chi crede che non vuole cambiare, e poi c'è chi guarda il telegiornale alla tele. Sono storie assurde ma vere, sono le storie di un secolo breve. C'è chi crede in un mondo migliore, c'è chi crede che non vuole cambiare, e poi c'è chi guarda il telegiornale alla tele. Sono storie assurde ma vere, sono le storie di un secolo breve.